Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. Il sole filtrava attraverso gli alberi quando Dorothy si svegliò e Toto, sveglio da molto, stava fuori a rincorrere gli uccelli lì attorno. Lo spaventapasseri l'aspettava pazientemente, ritto in piedi nel suo angolo. «Dobbiamo andare a cercare dell'acqua», gli disse. «A cosa ti serve l'acqua?» domandò lui. «Per lavarmi via dal viso la polvere della strada, per bere e per evitare che il pane secco mi si attacchi alla gola». «Deve essere sconveniente essere di carne», disse lo spaventapasseri riflettendo. «Devi dormire, mangiare e bere. Però hai un cervello, e poter pensare vale bene molti fastidi». Si lasciarono la casetta alle spalle e camminarono sotto gli alberi finché non trovarono una piccola sorgente di acqua trasparente, dove Dorothy si lavò, bevve e fece colazione. Vide che non c'era più molto pane nel cestino e la consolò a pensare che allo spaventapasseri non occorreva mangiare e quello che era rimasto del cibo poteva bastare a lei e a Toto. Quando ebbe finito il suo pasto e stavano per ritornare sulla strada di mattoni gialli, si sentì un gemito. «Cos'era quello?» chiese, impaurita. «Non ne ho assolutamente idea», rispose lo spaventapasseri, «ma possiamo andare a vedere». Fu proprio allora che sentirono un altro gemito venire dal bosco dietro di loro. Si addentrarono nella foresta e, fatti pochi passi, Dorothy vide qualcosa luccicare tra gli alberi. Corse fino lì e si arrestò, stupita. Vicino ad un albero, quasi tagliato a metà, c'era un uomo fatto interamente di latta, con un'ascia alzata in mano. La testa, le braccia, le gambe erano attaccate al corpo, ma se ne stava lì, perfettamente immobile, come se non potesse muoversi. Dorothy lo guardò meravigliata, e così anche lo spaventapasseri, mentre Toto abbaiava forte e tentava di mordergli le gambe di latta, facendosi solo male ai denti. «Sei stato tu a gemere?» chiese Dorothy. «Sì», rispose l'uomo di latta. «Sono stato io. È da più di un anno che gemo, ma nessuno prima d'ora mi aveva mai sentito o si era avvicinato per aiutarmi». «Cosa posso fare per te?» chiese lei con un sussurro, perché era commossa dal tono triste con cui parlava l'uomo. «Prendi la bottiglia d'olio e ungimi le giunture», rispose. «Sono tutte così arrugginite che non riesco più a muovermi. Se mi ungi bene, mi muoverò di nuovo in men che non si dica. Troverai la bottiglietta dell'olio nella mia casetta, su uno scaffale». Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Dorothy tornò immediatamente alla casetta e, trovato l'olio, ritornò e chiese premurosa: «Dove sono le giunture?» «Mettimi prima dell'olio sul collo», rispose l'uomo di latta. Dorothy obbedì, ma tale era la ruggine che lo spaventapasseri dovette prendere la testa tra le mani e girarla piano piano sino a sbloccarla. E solo allora l'uomo fu in grado di muoverla da solo. «Adesso le braccia», disse, e Dorothy ci mise l'olio e lo spaventapasseri le girò avanti e indietro e avanti e indietro finché non furono libere dalla ruggine e come nuove. Like him, they can tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. L'uomo di latte sospirò soddisfatto e abbassò l'ascia appoggiandola all'albero. «È stato un vero piacere», disse. «È da quando mi sono arrugginito che tengo in mano quest'ascia e sono felice di poterla finalmente poggiare a terra. Se adesso mi mettete l'olio anche sulle giunture delle gambe, sarò a posto». Così gli misero l'olio sulle gambe, finché non riuscì a muoverle liberamente. E li ringraziò una, due, tre, quattro volte per averlo liberato. Sembrava essere una creatura molto riconoscente. «Se non foste arrivati voi, avrei potuto rimanere lì per sempre», disse. «Mi avete di sicuro salvato la vita. Come mai passavate di qua?» «Stiamo andando alla città Smeralda per vedere il grande Oz», rispose Dorothy, «e abbiamo dormito nella tua casetta». «Perché volete vedere Oz?» chiese lui. «Vorrei essere rimandata in Kansas, e lo spaventapasseri vuole che gli si metta un po' di cervello in testa», rispose lei. L'uomo di latta si fermò a riflettere per un secondo. Poi disse, «Secondo te, Oz, mi darebbe un cuore?» «Beh, immagino di sì», rispose Dorothy. «Se è capace di dare un cervello allo spaventapasseri». «Già», disse l'uomo di latta. «Quindi se lasciate che mi unisca a voi, verrò anch'io alla città Smeralda per chiedere a Oz di aiutarmi». «Vieni pure», disse convinto lo spaventapasseri, e Dorothy aggiunse che la sua compagnia le avrebbe fatto molto piacere. Quindi l'uomo di latta si issò all'ascia in spalla e attraversarono insieme la foresta, finché giunsero alla strada lastricata di mattoni gialli. L'uomo di latta chiese a Dorothy di conservare la bottiglietta d'olio nel suo cestino, perché, disse, se dovesse piovere e io dovessi arrugginirmi, non ne potrei fare a meno. I never give you my number. I only give you my situation. And in the middle of investigation, I break down. Step on the gas and wipe that tear away. bene avere quel nuovo compagno, perché fatta poca strada, arrivarono in un posto dove gli alberi si infittivano di nuovo, impedendo il passaggio. Ma l'uomo di latta si mise a lavorarci con l'ascia e lo fece con tale piglio che in breve aprì un varco abbastanza grande per far passare tutta la compagnia. Dorothy era così immersa nei suoi pensieri da non accorgersi che, camminando, lo spaventapasseri era caduto in una buca ed era rotolato sul ciglio della strada. Data la situazione, le chiese aiuto per alzarsi. «Perché non hai evitato la buca?» chiese l'uomo di latta. «Io non so quasi nulla», rispose ridendo lo spaventapasseri. «Ho la testa impagliata, sai, e per questo vado da Oz a chiedergli un cervello». «Oh, capisco», disse l'uomo di latta. «Ma dopo tutto un cervello non è poi la cosa più importante del mondo». «Tu ne hai uno?» domandò lo spaventapasseri. «No, la mia testa è abbastanza vuota», rispose l'uomo di latta, «ma un tempo avevo un cervello e anche un cuore, quindi potendo scegliere preferirei avere un cuore». «E perché?» chiese lo spaventapasseri. «Se vuoi saperlo ti racconterò la mia storia». Così, mentre camminavano attraverso la foresta, l'uomo di latta raccontò la seguente storia. «Sono nato figlio di un boscaiolo che tagliava gli alberi nella foresta e vendeva la legna per guadagnarsi da vivere. Una volta cresciuto, anch'io diventai un taglialegna, e quando mio padre morì, mi presi cura della mia vecchia madre finché rimase in vita. Poi decisi di sposarmi invece di vivere da solo, per non soffrire di solitudine. Una delle ragazze, Gnammi, era talmente bella che me ne innamorai perdutamente. Lei, da parte sua, promise di sposarmi non appena avessi avuto abbastanza soldi per costruirle una casa più grande. Così iniziai a lavorare come non mai. Ma la ragazza abitava con una vecchia e lei non voleva che si sposasse perché era pigra e desiderava che la ragazza rimanesse con lei per cucinare e pulire. Così andò dalla perfida strega dell'est e le promise 2 pecore e una mucca se fosse riuscita a impedire il matrimonio. La perfida strega incantò la mia ascia e un giorno, mentre lavoravo di gran lena perché non vedevo l'ora di prender moglie e avere una casa nuova, l'ascia mi scivolò di colpo e mi tagliò via la gamba sinistra. All'inizio mi sembrò una grande sfortuna, perché sapevo che uno zoppo non poteva essere un bravo taglialegna. Mandai da un lattoniere e mi feci fare una gamba di latta nuova di zecca. La gamba, dopo che mi ci ero abituato, funzionava bene. La perfida strega dell'est ne fu molto irritata, perché aveva promesso alla vecchia che non avrei sposato la bella ragazza Gnammi. Quando ricominciai a tagliare la legna, l'ascia scivolò via di nuovo e mi tagliò la gamba destra. Ritornai dal lattoniere e mi feci fare un'altra gamba di latta. Poi l'ascia incantata mi tagliò via le braccia, una dopo l'altra, ma per niente scoraggiato le sostituì con 2 di latta. Quindi la perfida strega mi fece scivolare nuovamente l'ascia, che mi tagliò via la testa, e pensai che ormai per me era finita. Ma il lattoniere passava di lì, per caso, e mi fece una testa nuova, di latta, anche lei. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. We'll sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Allora pensai di aver sconfitto la perfida strega e lavorai più che mai. Ma non immaginavo nemmeno a cosa potesse arrivare la sua crudeltà. Trovò un altro modo per uccidere il mio amore per la bella ragazza Gnammi e fece scivolare di nuovo l'ascia in modo da tagliarmi il corpo a metà. Ancora una volta il lattoniere venne ad aiutarmi e mi fece un corpo di latta, attaccandoci le braccia e le gambe e la testa di latta con delle giunture, e così riuscì a muovermi come prima. Ma accidenti, ero senza cuore ora, e così persi tutto il mio amore per la ragazza Gnammi, e non mi importava più di sposarla. Immagino che stia ancora vivendo con la vecchia, e sia ancora lì ad aspettarmi. Il mio corpo brillava al sole, e ne ero molto fiero. Non mi importava più se l'ascia scivolava, perché non mi potevo più tagliare. C'era un unico pericolo, che le giunture si arrugginissero. Ma tenevo una bottiglietta d'olio nella mia casetta e mi ungevo quando necessario. Purtroppo arrivò un giorno in cui mi dimenticai di farlo, e avendo preso la pioggia, prima che mi rendessi conto del pericolo, le mie giunture si arrugginirono, e così rimasi bloccato nel bosco finché non siete venuti voi ad aiutarmi. È stata un'esperienza terribile, ma durante l'anno passato lì ho avuto tempo per riflettere e scoprire che la più grande perdita è stata quella del mio cuore. Quando ero innamorato, ero l'uomo più felice della terra. Ma senza cuore non si può amare, e quindi sono deciso a chiederne uno a Oz. Se me lo darà, tornerò dalla ragazza Gnammi e la sposerò. Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Dorothy e lo spaventapasseri furono molto colpiti dalla storia dell'uomo di latta e capivano perché desiderasse un cuore nuovo. «Comunque», disse lo spaventapasseri, «io chiederò di avere un cervello, non un cuore, perché uno stupido non saprebbe cosa farsene di un cuore, anche avendolo». «Io prenderò un cuore», ribatté l'uomo di latta, «perché un cervello non rende felici». E la felicità è la cosa migliore che ci sia al mondo. Dorothy non disse nulla, perché si chiedeva quale dei suoi amici avesse ragione, e decise che se avesse solo potuto tornare in Kansas da zia Em, non faceva una gran differenza che l'uomo di latta non avesse cervello e lo spaventapasseri un cuore, oppure che entrambi ottenessero quel che volevano. La preoccupava di più che il pane stesse per finire, e che nel cestino ne rimanesse solo per un altro pasto suo e di Toto. L'uomo di latta e lo spaventapasseri non mangiavano, ma lei non era né di latta né di paglia e non poteva vivere senza cibo. Alvar Horvacher ha letto Il mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it.